Siamo sotto la regione, sotto il palazzo della regione, perché continuiamo a pensare che le istituzioni regionali, come quelle cittadine, abbiano delle responsabilità politiche su quanto avvenuto durante l'alluvione, sulla gestione dell'alluvione, ma soprattutto su un'idea di sviluppo che considera anche un'idea della ricostruzione post-alluvione, che non tiene conto appunto dell'emergenza che stiamo vivendo, che è quella del cambiamento climatico che abbiamo visto e che non può continuare ad andare di pari a passo con la cementificazione delle nostre città, delle nostre campagne, dall'allargamento delle tangenziali delle autostrade e dalla costruzione indiscriminata e continua. Passando dal generale al particolare, hai parlato di caso di Rassignano, il caso di Figo. In questi giorni, appunto a partire da ieri, abbiamo fatto questa assemblea con tante realtà cittadine che si stanno occupando di diversi temi. Diversi temi che sono uniti, diciamo, dalla devastazione ambientale. Una devastazione ambientale che colpisce in forme diverse parti della città. Il nodo di Rassignano è particolare perché a fianco di un bosco viene abbattuta una parte di bosco per costruire un nuovo svincolo che, a detta delle istituzioni cittadine, serve a dare ossigeno al traffico, questo bellissimo simbolo, e con l'idea appunto di costruire un pezzo di strada all'interno praticamente del letto del fiume. Ovviamente quello che succede è che durante l'alluvione l'intero cantiere del nodo di Rassignano crolla nel fiume, e invece che ripensare il fatto che evidentemente non si può costruire un pezzo di strada dentro un fiume, il progetto continua. E quindi questo è proprio l'idea della miopia della nostra classe dirigente, delle nostre istituzioni, che appunto, ripeto, coinvolge sia la regione che il comune, ovviamente anche il livello del governo nazionale, ma che non tiene conto della realtà delle cose che viene schiacciata dalla necessità di continuare a costruire e quindi di creare speculazione. Ravenna, come uno dei punti centrali, politicamente parlando, anche dell'alluvione. Noi a Ravenna, poco prima della seconda alluvione, ricordiamo, eravamo insieme a tante altre realtà ambientaliste per protestare contro il rigassificatore, ma soprattutto ricordiamo come nel momento dell'alluvione il sindaco De Pascale, insieme al prefetto, fecero un avviso dicendo ai volontari di non continuare ad andare a dare una mano nei territori colpiti, perché avrebbero, secondo loro, ostacolato i servizi di soccorso dei mezzi pesanti. Questo è stato evidentemente, diciamo, smascherato dai fatti e da tanti volontari che sono continuati a confluire nei territori in cui c'era bisogno, ed è quello che abbiamo anche denunciato con un presidio fatto pochi giorni dopo queste dichiarazioni scellerate, andando appunto a denunciare questo teatrino. Allora noi vogliamo tornare anche in quella piazza del popolo, a Ravenna, nel centro della Romagna, per continuare a denunciare una gestione incomprensibile dell'alluvione e di quello che dovrebbe essere una ricostruzione che rimette in discussione quanto esisteva prima. Invece, tornando al locale, se vuoi parlare del caso di Figo. Caso di Figo che in qualche modo, diciamo, è tornato agli onori della cronaca in questi giorni per l'ennesima dichiarazione di fallimento, un fallimento annunciato già dal 2013, quando venne, diciamo, presentato il progetto di Fico, l'idea di creare una Disneyland, un parco giochi del cibo nella periferia scollegata dal resto di Bologna, non poteva che portare a un fallimento pagato anche in qualche modo dalle tasche dei cittadini, perché ricordiamo che il comune è coinvolto nell'affare di Fico, avendo concesso circa 46 milioni, diciamo, di valore della struttura e del territorio del CAB, così come è stata coinvolta la regione nel fallimento dei Ficobus, e così come saremo ancora coinvolti in quello che sarà il prossimo fallimento della linea rossa del tram, fallimento soprattutto perché si pensa di portare forzatamente a questo punto dei clienti che non vogliono andare a Fico, mettendo un'intera linea del tram a servizio di un progetto già fallito, perché l'idea appunto è quella di il capolinea della linea rossa deve arrivare a Fico a tutti i costi. Ma dove deve arrivare se questo progetto sta chiudendo? Poi non si capisce, lo chiudono, gli cambiano semplicemente il nome ma rimane la stessa questione. E allora anche questo dimostra ancora una volta come la speculazione venga, non è semplicemente, diciamo, un dato che cresce spontaneamente, ma è un dato incoraggiato, è qualcosa che viene anche spinto e sostenuto dalle nostre istituzioni.